Siamo in diretta, Milano Always Never Fun, e già che ci siamo salutiamo anche i nostri amici del gruppo Power Violence Palermitano che vengono spesso a trovarci più che a Milano, a Monza, al Boccaccio. Detto questo, l'arte teatrale spesso rimane ancorata a luoghi esclusivi, non accessibili a tutte e tutti, ma un po' di persone da un po' di tempo lavorano nelle retrovie per cercare di scardinare questo mood. Proviamo a parlarne ora con un compagno. Ciao, ci senti? Buonasera a tutti. Ciao, buonasera, grazie. E a tutte. Grazie a voi, grazie a voi. Eccomi. Allora, niente, come dicevamo, l'arte teatrale appunto spesso ancorata a luoghi esclusivi e niente, allora volevamo innanzitutto, prima di iniziare a farci una chiacchierata con te, cercare di capire insomma di cosa ti occupi, cosa fai o di alcune cose che ci saranno qui a Milano a breve riguardo appunto il teatro che ritorna negli spazi sociali, sì. Non solo. Certo, intanto appunto ancora ciao, io mi chiamo Moreno, da tanti anni mi occupo di musica e di teatro, sia appunto come dicevi tu nei luoghi deputati, sia anche in altri luoghi non direttamente collegati al teatro appunto. E vengo da una formazione comunque che è a metà classica, ma allo stesso tempo devo ringraziare tantissimo il fatto che negli anni 90 i centri sociali fossero dei posti pieni di fermenti culturali. E io, venendo da una famiglia con pochissime disponibilità economiche, ho avuto comunque la possibilità di riuscire a formarmi all'interno di questi posti, non direttamente collegati al teatro, ma dove appunto c'erano degli attraversamenti da parte di artisti, artigiani del teatro e della musica assolutamente validi, che hanno contribuito a formarmi. E sabato 3 dicembre alle ore 21 presenteremo allo spazio di Conchetta 18, di Fox 18, il nostro nuovo spettacolo, una produzione Argon Teatro che si chiama La città del sole e il crepuscolo della ragione. E sono io in scena insieme al caro amico Ruggero Di Noia, la regia è di Francesco Mazza, che è anche il fondatore di Teatro Argom. Anche Teatro Argom ha una storia particolare, proprio perché è un posto, come dice lo stesso Francesco Mazza, strappato ormai da 25 anni alla periferia. È un posto che non riceve alcuna sovvenzione statale o regionale o cittadina, e va avanti con le proprie forze e attraverso l'autogestione e con delle proposte culturali molto valide. E se vuoi fammi delle domande oppure ti parlo brevemente dello spettacolo, se vuoi. Ah, sì, guarda, se vuoi possiamo un attimo presentare lo spettacolo e poi ti volevo fare una domanda un po' più specifica. Certamente. Insomma, su quello che provi a fare tu insieme ad altri ragazzi, sì, e ragazze. Sì, sì, sì. Allora, Città del Sole, il crepuscolo della ragione, nasce dalla lettura di un romanzo che si chiama Sul filo del tempo, di March Pierce. È un romanzo che si colloca all'interno della tradizione fantascientifico femminista degli anni 70, lo scrive questa donna che si chiama March Pierce, una bravissima scrittrice, e parla di Connie, che è questa donna portoricana a cui vengono diagnosticati dei disturbi mentali e che finisce all'interno di un circuito manicomiale molto pressante. E Connie però ha una particolarità, riesce a connettersi vivamente con il futuro, più specificatamente con l'anno 2137 e con una società delineata molto chiaramente, una società dove è in atto un esperimento libertario, utopico. Dall'altra parte invece, come contraltare, si collega anche a questa società invece distopica, questa società animata da patriarcato, animata da ipertecnicismo, insomma una società per niente libertaria. E quello che ci interessava, al di là della classica dicotomia tra utopia e distopia, che quello secondo me è meno interessante, la cosa che ci interessava è cominciare a parlare del rapporto stretto che c'è tra, tra follia e cambiamento sociale, tra follia e immaginari altri, tra follia e immaginari di futuro, perché ci siamo detti senza un po' di follia non si cambia nulla. Quindi oltre al dipanarsi di questa storia ci sono anche le storie di noi due attori, che comunque è tutto un lavoro di autodrammaturgia, per cui anche le nostre, diciamo, urgenze, le nostre istanze escono prepotentemente all'interno dello spettacolo. Questo è quanto. Beh, devo dire, è un bello spettacolo e quindi rilanciamo l'appuntamento, invitiamo tutte e tutti, insomma, a presentarsi sabato sera dalle 21 presso il Cox 18 in via Conchetta 18 a Milano. E, insomma, come dicevamo anche prima mentre ti presentavamo, quello che provi a fare te, ma anche insieme ad altre persone, riportare il teatro, ma più in generale l'arte, ma anche una serie di ragionamenti come ci hai descritto ora. Anche questo, insomma, sulla follia, insomma, contemporanea all'interno della società, che secondo me in questo momento, anche post-Covid, poi follia, l'accezione negativa o positiva, insomma, è abbastanza soggettiva, ma un po' di follia dopo questi due anni di pandemia rinchiusi ce l'abbiamo bene o male tutte e tutte. Insomma, comunque quello che provi a fare te insieme ad altre persone è cercare di creare un livello di accessibilità e di inclusività per tutti e per tutte, e riportare il teatro nei cortili, nei parchetti, nelle piazzette, negli spazi sociali. Volevamo un po' parlare con te di questo, da dove nasce, insomma, questa esigenza che hai tu, che è anche molto forte, perché comunque noi ci conosciamo, ma nel momento in cui, non lo so, ci hai proposto anche delle iniziative, era molto, io sentivo molto la tua spinta, la tua forza in questo, quindi insomma, se, sì, se vuoi anche di condividerlo con gli ascoltatori e le ascoltatrici, certo, secondo me è interessante. Certo. Allora, intanto facciamo una considerazione: il teatro non nasce certo nelle corti, non nasce certo nei circoli elitari, nasce dal, odio usare questo termine, ma passatemelo, dal popolo. Ok? Nasce dal basso, nasce per rispondere alle tensioni all'interno della città, all'interno dell'agone, quindi già questo per me è piuttosto interessante. Chiaro, dal mio punto di vista, anche se ne sono molto felice, e anzi, nei luoghi non deputati al teatro, molte volte uno come me, che comunque ha un percorso non proprio diciamo lineare e classico, tantissime volte sono stati proprio i luoghi non deputati al teatro a darmi lo spazio per proporre i miei lavori, e insieme ad altri e ad altre, no? Quindi già questo è assolutamente valido. Dal mio punto di vista poi non basta portare gli spettacoli nei luoghi altri. Quello che, diciamo, mi anima di più, e che anima credo anche i miei collaboratori e collaboratrici, è proprio la riflessione sulla ricchezza della marginalità, sulla ricchezza del margine. Qua, per citare anche ad esempio Bell Hooks, no? Con Elogio del margine, molto interessante, un libro molto interessante, che parla proprio della specificità di sguardi che riesce a assumere colui o colei che vive all'interno del margine. La possibilità di riuscire a, intanto bisogna capire che cos'è il margine, bisogna capire che cos'è il centro, ma esiste un centro o forse è tutto margine? Cioè, queste sono domande molto aperte, molto interessanti, e comunque stando nel margine c'è la possibilità di sviluppare immaginari e narrazioni che secondo me sono una sfida per ogni territorio, per ogni comunità, al di là dell'identitarismo, al di là delle narrazioni che vogliono appiattite le comunità o su un terreno di, appunto, diciamo, buonismo, oppure su un terreno di disperazione e basta. Invece io credo che all'interno delle comunità, all'interno dei posti non deputati, attraverso gli strumenti dell'arte, perché io ad esempio non mi considero artista, mi considero un artigiano delle mie passioni, no? Però con lo strumento dell'arte, secondo me, si può coadiuvare tutta una serie di processi, di percorsi collettivi all'interno della comunità. Aprire sguardi nuovi, studiare delle nuove narrazioni, capire come autonarrarsi, che non è una cosa per niente scontata, finirla con delegare ad altri il racconto che dovremmo fare noi stessi su noi stessi, che dovrebbero fare le comunità su loro stesse, no? E in più dentro posture che non sono quotidiane, anche questo è interessante, perché normalmente, senza nulla togliere alle forme classiche della politica, che sono fondamentali assolutamente, no? Però secondo me a volte proprio l'imprigionamento dei corpi, ok, ci porta a ragionamenti imprigionati, non so come dire, e pratiche imprigionate. Quindi può essere utile, non decisivo, ma utile, l'utilizzo anche degli strumenti artistici. Chiaro, per citare una cara amica, poi, chiaro, l'arte è l'arte, eh? La rivoluzione è la rivoluzione, o meglio direi, le rivoluzioni sono le rivoluzioni. Non è che pensi che allora fai arte, sei un artista impegnato e allora cambi il mondo. Anche questa secondo me è una narrazione assolutamente fasulla per quanto mi riguarda, però l'arte è molto importante, i linguaggi, studiare linguaggi, studiare modi per stare insieme anche attraverso l'arte credo sia fondamentale. Va bene, perfetto. Noi, guarda, ti ringraziamo e speriamo di continuare questa chiacchierata. Insomma, chi ascolterà il programma e vorrà continuarla con te. Perfetto, spero di non essere stato troppo verboso. No. Anzi, cioè, devo dire che sicuramente invogliante rispetto all'appuntamento di domani sera in Conchetta. Lo ribadiamo, domani sera dalle 21, appunto, la città del sole, dalle il crepuscolo 21. Della ragione. Il crepuscolo della ragione. Perfetto. Ok, vi aspettiamo tanti, speriamo, e dopo se volete si fa una chiacchierata. E continuiamo questa volentieri. Discussione. È un bicchiere molto di interessante. Vino. Anche 2-3, dai. Beh, certo. Perfetto, dai, grazie, ti ringraziamo. Mille. Ciao, grazie ciao, a voi presto. E buona continuazione. E ci ciao, risentiamo ciao. Presto sicuramente. Ciao. Ok, ciao, grazie, ciao. Bene, altra doppietta musicale, vediamo cosa ci ha riservato il nostro Bondyna. Iniziamo intanto con una traccia che si chiama Riot Radio. My mind on